You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, dilli. Che cavolo aspettiamo a mangiare? Buona serata da Valentina Furlanetto, benvenuti ancora una volta a questo appuntamento di Radio 24 che vi racconta un po' l'Italia che cambia anche grazie alla presenza di profumi, odori e gusti che arrivano da altre parti del mondo. I nostri protagonisti sono sempre stranieri di origine, italiani ormai acquisiti oppure italiani che hanno qualche radice altrove. Questa sera, prendendo anche spunto dal film Indovina chi viene a cena, che ci introduce sempre nella nostra puntata, abbiamo una coppia. Abbiamo il piacere di avere stasera Corrado e Amy. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Titolari del ristorante Mangiare, Bere, Uomo, Donna a Suzzara, provincia di Mantova, è così? Sì, a Suzzara, sì, in provincia di Mantova, esattamente. Con questo bel accento mantovano, Corrado, che mi pare di capire che sia originario da quelle parti, però il nome del ristorante non è esattamente un nome che è stato preso dalla storia di Mantova, giusto? Esattamente, sì. Abbiamo scelto di dare questo nome al nostro locale partendo innanzitutto da quella che è una filosofia confuciana che in parole povere insomma intende dire che sono mangiare, bere, uomo e donna sono le quattro cose che gli esseri umani desiderano, sono le cose di cui gli uomini hanno bisogno e che di cui tutti hanno desiderio e che quindi giusto e corretto cercare di esaudire questi desideri nel modo migliore possibile, insomma, senza nascondersi a volte dietro un pudore che insomma potrebbe anche essere naturale, ma che comunque è giusto condividere le nostre esigenze e cercarle di soddisfare nel modo migliore possibile. Amy, ha detto sì. Bene Corrado? Ma qualcosa sì. Correggiamolo allora. Filosofia viene da Confucio, mangiare, bere e donna, e sono quattro desideri profondamentali dei uomini. Però lui, base di questi quattro desideri, ha scritto un libro lunghissimo, si chiama Libro di Riti, perché bisogna seguire certe regole per seguire, per cercare questi quattro desideri. E lei lo sa e lo dice perché dall'Asia proviene, no? Ci racconta un po' la sua storia. Sì, allora, io vengo da Hong Kong, sono venuta in Italia quando avevo 26 anni, in 2006. Io lavoravo come giornalista a Hong Kong, in campo di enogastronomia. Dopo ho deciso di approfondire questa cosa e sono venuta in Italia per studiare un po' vini, anche cibi di qualità. E poi ho incontrato Corrado. Lui proprio lavorava lì, così. Allora, cosa ci avete portato questa sera come piatto? Come piatto orientale ho pensato ravioli cinese a vapore. Mm-hmm. Prima cosa bisogna preparare il ripieno. Il ripieno di solito facciamo solo con maiale. Si aggiunge un po' di zenzero, poi dopo un po' di salsa di soia,

Ravioli o tortelli di zucca alla mantovana. Ingredienti: 400 g di farina bianca, 4 uova, 1 kg e mezzo di zucca, 150 g di mostarda mantovana, 130 g di amaretti, 150 g di formaggio grattugiato, la buccia di un limone grattugiato, 15 g di burro, noce moscata, sale e pepe. Preparate la pasta all'uovo mescolando in una terrina la farina bianca e le uova e, se necessario, aggiungere un filo d'acqua tiepida all'impasto per ammorbidirlo. Fatelo quindi riposare un'ora nel frigo. Intanto procedete a preparare il ripieno. Pulite la zucca togliendo la buccia e i semi, tagliatela a cubi e dopo averli ricoperti con la carta stagnola, fateli cuocere al forno a 180 gradi per circa un'ora. Frullate la zucca con il mixer e mettetela in una ciotola in cui aggiungerete la mostarda tritata finemente, gli amaretti polverizzati, il formaggio grattugiato, la buccia del limone, la noce moscata grattugiata e il sale. Mescolate bene il ripieno e lasciatelo riposare per almeno 30 minuti nel frigo. Procedete quindi a stendere la pasta e posizionate il ripieno con un cucchiaino a distanze regolari. Ripiegate la sfoglia per ricoprire il ripieno e tagliate con la rotella i ravioli. Assicuratevi che siano ben chiusi e fateli quindi cuocere in acqua bollente. Scolarli appena salgono a galla e condirli con il burro fuso e una spolverata di formaggio grattugiato. You've got to give a little... Indovina chi viene a cena. Bentornati in onda con Indovina chi viene a cena. Questa sera siamo con Corrado e Emi, titolari del ristorante Mangiare, Bere, Uomo, Donna a Suzzara in provincia di Mantova. E il sonoro che avete ascoltato poco fa è quello di un film proprio che si chiamava Mangiare, Bere, Uomo, Donna del regista taiwanese Ang Lee. Corrado, lo conosceva questo film? Beh, se devo essere sincero, non lo conoscevo, no, è stata una delle tante cose che, insomma, di cui mi sono arricchito dopo aver conosciuto Emi, ecco, per cui è stato un bellissimo piacere scoprirlo, per lei riscoprirlo e per me scoprirlo per la prima volta, perché comunque è un film che attraversa anche tematiche a noi molto care. Ecco. Certo, il protagonista è un cuoco vedovo che riacquista il suo gusto una volta che le sue tre figlie se ne vanno di casa. Emi, è un film che che è importante probabilmente per lei, visto che ha ispirato anche il nome del vostro ristorante. Sì, proprio per sempre. È un film che mantiene ancora, cioè primi 10 minuti del film proprio lo vedi come un cuoco cinese di una volta cucinare, proprio per esempio prima di macellare un pollo, che tipo di cibo devono dare a pollo prima di ucciderlo proprio, quindi è proprio una cosa che nel nostro sangue questo tipo di cucina. Cioè la vita dell'animale, insomma, è importante per poi potersene cibare, è anche una metafora, no? Sì, proprio sì. Ci sono moltissime scene di cucina, peccato in radio non poterle vedere, ma insomma, perché in questo sonoro che abbiamo sentito ci sono appunto queste scene di macellazione, di taglio, di vapori, di pentole. Poi c'è anche la scena, proprio la figlia seconda di cuoco, lei ha cercato di fare una tipo crepe a mano, e quello lì è tipo metodo antica di fare la sfoglia di involtini di primavera, che lo facciamo ancora così qua da noi. Sì, è una cucina anche complicata, la cucina cinese, no? Che ha delle preparazioni lunghe, faticose. Lei, Emi, che cosa si ricorda della cucina di casa sua quando era piccola? Mi ricordo tanto, perché mio padre, proprio mio papà, è il re di cucina. È un po' contrario da italiana, cioè cucina italiana, che la mamma è la regina, no? Invece a casa mia è proprio mio papà è cucina tutto il giorno, lui piace cucinare, tutti i giorni compra delle cose freschissime dal mercato, da noi si dice wet market, perché tutte le cose, anche pollo, lo scegliamo quando sono vivi, proprio scegliamo da vivo. Lei, Amy, ho letto, ma non so se è proprio così, ha imparato a fare la sfoglia degli involtini primavera, la sfoglia tradizionale, guardando proprio il film A mangiare, bere, uomo, donna. Sì, perché i involtini primavera viene mangiato nella festa di morte, è una tradizione, solo che ci sono di posti, lo vendono queste sfoglie fatte a fresco, proprio a momento, e lo porti a casa, lo rivolge e mangi fresco. Invece quello tipo di fritto viene dopo, perché praticamente dopo giorno di festa di morte magari c'è, rimane un po' di sfoglia, allora non puoi più mangiare fresco, lo rivolgi delle verdure, lo fai friggere, infatti viene dopo. Per chi è in Italia e non ne sa molto, ci spiega cosa sta avvenendo a Hong Kong? Studenti che hanno 17 anni o all'università hanno cominciato di occupare diversi posti importanti a Hong Kong, soprattutto dove c'è il centro finanza. Sì, sulla scia di Occupy Wall Street c'è questa Occupy Hong Kong. Cosa chiedono questi studenti? 2017, per legge dobbiamo partire un sorta di elezione per governatore, quindi anche possiamo votare direttamente quello che vogliamo. Quindi però, chiedono un sistema per votare democratico. Sì, è questo che stiamo chiedendo. Esatto. E lei immagino sarà d'accordo, insomma. Ma queste cose bisogna fare, perché comunque è scritto nella legge praticamente. Lo chiedono a gran voce, una cosa insomma che è dovuta in qualche maniera. E dopo come si fa? Infatti studenti hanno il loro parere e poi gli altri, cioè diversi, certo, parere. Amy, lei è in Italia appunto dal 2006, ha mai subito dei pregiudizi? Ha mai visto nello sguardo di chi l'ha accolta in Italia un atteggiamento che non le è piaciuto? Ma sinceramente sono stata veramente molto molto fortunata, perché io ho proprio, sinceramente, quando parlo mi sento italiana, solo che non mi vedo la faccia, no? Cioè non mi vedo che sono c'ho una faccia orientale, quindi cioè non mi sento che io sono diverso dagli altri. E gli altri la fanno mai sentire diversa? Ma veramente non è mai successo, perché per tutti quegli italiani che ho conosciuto sono veramente molto molto aperti, molto bravi. Magari su mangiare è normale anche, cioè poi tempo a piano piano a conoscere cose nuove, anche i miei genitori, cioè se io chiedo di mangiare spaghetti sicuramente non lo mangiano spaghetti, mangiano per forza tutti i giorni il riso. La cucina di Hong Kong è una cucina cinese influenzata dalla cucina cantonese, dalla cucina Hakka, Teochew o Kien, da quella occidentale, giapponese e del sud-est asiatico. Tutte queste influenze sono dovute al suo passato di città commerciale e facente parte dell'impero coloniale britannico. Dalle bancarelle ai ristoranti più esclusivi, Hong Kong offre una varietà illimitata di cibo per ogni classe sociale. Combinazioni complesse e competenze gourmet internazionali hanno dato a Hong Kong le etichette e reputazioni di paradiso gourmet e fiera mondiale di prodotti alimentari. I ravioli jiaozi, cotti al vapore in ceste di vimini, sono ripieni di carne, cipolla e verdure, spesso accompagnati da una salsa a base di peperoncino, aceto e salsa di soia. Altrettanto buoni i tagliolini, o spaghetti o spaghettini, serviti con un brodo piccante o saltati assieme a diverse verdure in grosse padelle. Gli spiedini sono un altro popolare piatto. Ce ne sono di tutti i tipi: spiedini di totani, di polpo, di cosce, ali e zampe di pollo, manzo, interiora, cotenne di maiale, funghi, zucchine e patate. Prima di chiudere, ci dice un piatto italiano che proprio non sopporta. Tortelli di zucca, devo dire proprio di questa zona, mi dispiace tanto perché lo so, è proprio un piatto tipico di Mantovana, però per proprio zucca dolce nel piatto salato non riesco. Ai mantovani gli si spezzerà il cuore, Corrado. Guardi, cosa devo dire? Io ne vado matto, cioè, uno dei miei piatti preferiti. Corrado, cos'è che proprio non sopporta di Hong Kong? Ah, questo è difficile. Della cucina. No, questo è difficile da dire. Forse sui dessert, sui dolci, sono un po' forse legato a quello che è la nostra tradizione, nel senso che comunque il dolce tipico cinese o comunque di Hong Kong in questo caso è un dolce che ha intanto un bassissimo contenuto di zucchero, per cui assolutamente non è ci dolce. Siamo. E poi ha una consistenza forse delle volte un po' difficile da prendere, nel senso che è un po' colloso delle volte. E cos'è che invece da quando l'ha assaggiato, dei gusti che le ha fatto conoscere sua moglie, non riesce più a farne a meno? Vabbè, quelle sono parecchie cose, devo dire. Sì, sono tantissime. Ce ne dica una. Dal un certo modo in cui di fare anche solo una semplice bracciola di maiale, oppure delle volte anche il pollo ruspante che troviamo dal contadino fatto al vapore in un certo modo con le verdure, oppure insomma, le cose sono parecchie, ecco, anche solo semplicemente una zuppa di noodles con il brodo di maiale, insomma l'ha conquistata in cucina. Emi, sì. Per dare un po' di conforto a questi mantovani, cosa le piace, cosa potrebbe, proprio non potrebbe più vivere senza dell'Italia e di Mantova? Ah, spaghetti, vino, formaggio, veramente quando torno a casa, perché ogni gennaio vado a casa per un mese e dopo mi viene voglia veramente di mangiare un bel piatto di spaghetti e pure un bel piatto di tagliatelle tirato a mano e alla ragù di anatra, cioè una roba che mi viene voglia di mangiare, cioè è una cosa. Abbiamo fatto venire l'acquolina anche al nostro regista. Io vi ringrazio con questo scambio di cose che veramente non possiamo più fare a meno di mangiare e cose che detestiamo. Io ringrazio Emi e Corrado, titolare del ristorante Mangiare Bere Uomo Donna di Suzzara in provincia di Mantova. Buona serata e grazie per essere stati con noi. Grazie a voi. E io e Fabio Cantadori in regia rimaniamo con l'acquolina in bocca. Ringrazio anche Fabio per l'assistenza tecnica, tutti voi per l'ascolto questa sera. Ci risentiamo sabato prossimo. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto. You've got to give a little.